signore e signori, Mike Francampo! Mike, ready to fight, yeah. Con lo stile che ti prende non ti molla. Grosso come un Boeing, si decolla come un joint tra la folla. Quando ti arriva la sbanfa, questa roba tira la gente, si gira e gusta la fragranza di ganja. Con eleganza avanti con gli sbatti e gli scazzi di chi non scende a patti, di chi dà pattoni usando canzoni. Per chi vuole spiegazioni, sforno rime nuove, non vi do ripetizioni. Bon ton, non ne ho nemmeno un po'. Ciò che so, camo l'hip hop e lo spingerò finché vivrò. Perché quando lo ascolto mi sento al top. Perché quando tengo il tempo è come se fermassi il tempo, bro. Odio la sveglia quando suona ogni mattina, perché mi confina negli orari della vita. Rompa la mia fantasia, mi rovina i sogni che stavo facendo. La ringrazio se era un incubo dove stavi rompendo. Spento, ma in fondo non mi importa molto. Ed è questo il bello, me ne sbatto anche se non sono sconvolto. Porto un bagaglio carico di rime, non di traglia. Perché il fuoco che mi brucia di certo non è di paglia. Come la tua coda quando spagli e ti nascondi. Quando te la squagli nel giro di 3 secondi. Poi ti scusi, metti mani avanti, ma non ti aspettare un 5. Perché io detesto chi parla ma invece finge. Sono fatto così, che ci posso fare? E non mi muovo di qui, beh, è regolare. Sfogo la creatività, la mia personalità. Perché essere me stesso è la mia vera libertà. Sono fatto così, e ne sono contento. E non mi muovo di qui, perché adesso è il mio momento. C'è chi dice che così non va, che non sono normale. Ma non conta con che stile, l'importante è che sia originale. Amo le bionde senza smalto, ma col doppio malto. Che se te le fai non metti corna a qualcun altro. Senza lo smartphone, che mi portano in alto. Che mi tolgono la sete per 2 euro e nient'altro. Io ripardo e non mi incarto, incastro in ogni quarto. Ogni sucker che mi rompe le palle, me lo scarto, scendo dalla valle con lo stero sulla spalla. Questo è stile libero, tu manco stai a galla. Vai, passa un'altra birra vice mentre canto questa hit. Faccio un altro trick, danzo sul mio ring come Apollo Creed. Chi mi spiazza in due per il momento non c'è ancora. Ho la potenza sonora, senti ora. Se sei uno di quei rapper che fa testi più di lui, di un caffè americano decaffeinato. Io non sono americano, io non sto col ferro sotto mano. Ma faccio 2 rime e poi ti sdraio, chiaro. Questa roba è forte, se ti entra nelle cuffie ti dà soddisfazione al primo ascolto. Altro che il tuo pusher, pompano i subwoofer. Senti che vibrazioni dai coni, prende bene, danno nuove sensazioni. Sono quello che non bada ad essere fashion, che tira sulle mani e giù il palco di jam session. Ero mad nel passato, sono mad nel presente. Sono mad nella testa e lo sarò per sempre. Sono fatto così, che ci posso fare? E non mi muovo di qui, beh, è regolare. Sfogo la creatività, la mia personalità. Perché essere me stesso è la mia vera libertà. Sono fatto così, e ne sono contento. E non mi muovo di qui, perché adesso è il mio momento. C'è chi dice che così non va, che non sono normale. Ma non conta con che stile, l'importante è che sia originale. Tienimela ancora un po', Andre. Sì. Ok, il mio disco è più tagliente del cerchio d'oro di Xina. Ma se voglio guadagnare con quello vado in rovina. Sento dire, sono appassionato e spingo l'hip hop. 20 euro per la disco sì e 5 per un disco no. Ma è la mia generazione che ragiona in questo modo. Si stupisce se gli dico che è di Genova sto suono. Ma ci sballo e me la sciallo con sto ritmo buono. Quindi io non smetto manco se finisco al suolo.